La guerra in Afghanistan è la più lunga delle guerre americane, vero? Sì, è la più lunga. La guerra precedente che era durata di più era quella del Vietnam. E vorrei chiedere a Fraser Ottanelli di raccontarmi un po' cosa succede nella sua università, perché se non sbaglio nella vostra università c'è uno dei 3 centri nazionali per rieducazione e riabilitazione dei veterani di queste guerre, dei feriti in queste guerre, o sbaglio? Sì, la University of South Florida è un'università statale, una delle più grandi negli Stati Uniti, e in più siamo anche Tampa, naturalmente, è dove si trova Central Command, che è la base, diciamo il centro nevralgico per tutte le attività militari nel Medio Oriente, per cui c'è questo legame tra sia struttura universitaria e struttura ospedaliera, e naturalmente poi una forte presenza militare legata alla guerra. Senz'altro questa struttura ospedaliera è uno dei centri più importanti di raccolta dei feriti, i soldati che devono subire un periodo di riabilitazione dopo il conflitto. Che tipo di ferite hanno questi soldati? Ma i nuovi, diciamo, i grandi mutilati delle guerre moderne non sono solo quelli che hanno perso un braccio, una gamba o tutte e due, come purtroppo succedeva spesso e succede tuttora naturalmente, ma ora soprattutto quello che si vede, che si sente più spesso proprio sono gli effetti degli IEDs, queste esplosioni che magari lasciano il corpo intatto ma creano dei grossi traumi, dei traumi notevoli al cervello. Tra l'altro la guerra in Vietnam, ricordiamolo, ha fatto 60.000 morti, la guerra in Afghanistan e quella in Iraq combinate ne hanno fatti circa 4.000 se non sbaglio. Che cosa è successo? È successo che molti venivano feriti durante il Vietnam e poi morivano. E invece è stato uno straordinario progresso nella medicina e quindi si riescono a salvare i feriti, coloro che sono mutilati, che sono oggetto di un attacco oppure che sono sotto l'esplosione di una mina. E quindi è vero che ci sono meno morti, però è anche vero che ci sono molti più feriti. Ecco. Molti più feriti, delle ferite che un tempo avrebbero causato una morte certa, ora riescono a salvarli e quindi molti li vediamo qua.